Incontri di Gianfranco Fabi. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La risposta è scritta nel vento, Bob Dylan. Iniziamo così il nostro programma di oggi pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica, Roger Abravanel. Buongiorno. Come mai la risposta è scritta nel vento? Bob Dylan, le piace questa musica? Questa... Perché sono anzianotto. Siamo anzianotti, anni 60, anni 70, vuol dire sempre sulla cresta dell'onda, qualcosa che ricorda un'età forse lontana, siamo un po' nostalgici, però in fondo si è costruito molto in questi anni. E Dylan è anche ancora molto attuale comunque. Indubbiamente. Roger Abravanel, senior partner della McKinsey, che ha lasciato, come si dice si ufficialmente... Si dice director emeritus, vuol dire una specie di... Come presidente emerito della Repubblica, quindi una cosa di certo, dopo una vita passata alla McKinsey, 35 anni alla McKinsey, la maggiore società di consulenza aziendale del mondo, e indubbiamente ha preso come missione personale quella di fare il missionario del merito in Italia. L'ultimo libro, Italia cresci o esci, di appunto Roger Abravanel e Luca Dagnese, Meritocrazia e regole per dare un futuro ai giovani, è un'altra tappa, perché non è l'ultimo, cioè è l'ultimo libro, ma ce ne sono stati altri. Io avevo scritto Meritocrazia, l'ho scritto 6 anni fa, ma è uscito 4 anni fa. Meritocrazia era una brutta parola prima che uscisse, mi dicono che poi dopo il mio saggio è diventata un po' meno una brutta parola. Però mi sono reso conto col tempo che questa meritocrazia se ne è parlato tanto, poi è diventata un po' di moda, oggi ci sono centinaia di premi al merito, un sacco di eventi, però non nasce. E perché non nasce? Perché la meritocrazia purtroppo ha bisogno di una cosa per nascere, la concorrenza. No? Faccio un esempio che valeva fino a ieri, peraltro, perché facevo l'esempio del calcio. Facevo l'esempio del calcio perché dicevo, io sono juventino, non so se nel bene o nel male. Se Del Piero portava un suo cugino claudicante, lo proponeva, lo raccomandava, non lo prendevano perché sennò la Juventus tornava in Serie B. Perché? Perché nel calcio teoricamente c'è un mercato, la concorrenza. Da ieri non posso più usare questo esempio perché c'è anche nel calcio ci hanno tolto la concorrenza, però un po' più di concorrenza c'è. Quindi a questo punto mi sono domandato perché in Italia non nasce la meritocrazia, non c'è la concorrenza, perché non c'è libero mercato. E perché non c'è libero mercato? Perché non ci sono le regole. Ma comunque si paga, il libero mercato prima o poi presenta i conti, perché una società senza merito è anche una società, appunto come dice peraltro il libro, una società che non cresce. Esatto, dopo infatti questo secondo saggio che si è chiamato Regole, che ho presentato sempre a Bocconi, a Montecitorio, eccetera, è arrivata la crisi. È arrivata questa crisi e ci è stato chiesto a me, al mio coautore Luca Dagnese, di prendere le nostre idee e di fare delle proposte su questo tema un po' magico della crescita. Allora abbiamo scritto questo saggio per spiegare tanti miti. A noi italiani ci vengono raccontate un sacco di miti e di fandonie. Primo, su quali sono i nostri problemi. Per esempio ci viene detto che la nostra crisi è colpa della finanza anglosassone, no? Quante volte l'abbiamo sentito dire? Però se la nostra crisi viene molto da prima. L'Economist ci ha definito il malato d'Europa nel 2005, quando l'economia cresceva molto. Poi ci viene detto che la nostra crisi è il debito. Il nostro debito, in paragone al PIL, è la metà del Giappone. L'America sta arrivando al nostro livello. Quindi non è un problema di debito, il nostro è un problema di crescita. Noi cresciamo da 20 anni meno di tutti. E in termini di PIL pro capita, solo Haiti e lo Zimbabwe hanno fatto come noi. Quindi abbiamo cercato di spiegare che il nostro è un problema di crescita. Dopodiché, perché non cresciamo? E anche qui c'è tutta una serie di miti che ci sono dietro, che abbiamo cercato di affrontare, prima poi di proporre delle ricette. Ecco, perché in Italia poi il problema è sempre un altro. Si dice, quando si vuole affrontare qualcosa si va bene, però il problema è un altro. Allora, dalla sua esperienza, l'esperienza appunto anche di consulente aziendale in McKinsey in questi 30 anni, anche nel mondo delle imprese, dove dovrebbe esserci concorrenza, dovrebbe esserci libero mercato, si vive questo fatto tutto italiano di un'economia basata sulla relazione piuttosto che sul merito? Io ho una grande fortuna che ho sempre vissuto in contesti molto aperti alla concorrenza e meritocratici. Le do un esempio: in McKinsey, quando sono andato in pensione, avevamo assunto 1600 giovani nel mondo e per assumere 1600 avevamo fatto uno screening di 1 milione di curriculum vitae. Dopodiché adesso io sono per esempio nel consiglio di una società che si chiama Luxottica, che è una società straordinariamente meritocratica, aperta addirittura con un imprenditore che non ha messo il figlio ma ha messo un esterno. Quindi io sono un privilegiato, però proprio per essere un privilegiato vedo i mali del nostro paese, vedo veramente le cause della non crescita che ho spiegato nel mio saggio. Prenda Luxottica un esempio, ci viene raccontato che uno dei nostri problemi è che dobbiamo tornare al passato. Quante volte l'ha sentito? Alle piccole imprese, manufatturieri, il Made in Italy. Luxottica è un esempio che il Made in Italy è morto, perché Luxottica è un'azienda straordinaria che produce in Italia e in Cina. Incidentalmente più produciamo in Cina più produciamo in Italia, però non abbiamo solo i nostri marchi italiani tipo Prada eccetera, abbiamo anche Ray-Ban e Oakley. Non produciamo solo, abbiamo 6.000 negozi, quindi il concetto del Made in Italy è finito ed è stato nel caso di Luxottica sostituito da concepito, created se vuole, in Italia e guidato dall'Italia, da un azionista, da un manager molto bravo. E comunque è sempre un marchio di fabbrica italiano, nel senso di questo concepito in Italia vuol dire che c'è una qualità originale italiana. Ecco, Luxottica è anche un esempio appunto di un'azienda che è nata negli ultimi 50 anni, è data dal nulla ed è diventata una grande azienda multinazionale. Quindi è possibile in Italia realizzare esperienze di questo tipo, non c'è solo Luxottica, ce ne sono anche altre che sono diventate delle multinazionali, magari delle multinazionali tascabili. Quindi non è tutto uno scenario negativo, è uno scenario forse difficile, forse complesso, ma in cui è possibile realizzare ancora un'imprenditoria moderna. Allora, sicuramente è possibile. Abbiamo in Italia un sacco di imprenditori bravi. Il problema è che ne abbiamo pochi, di Luxottica ne abbiamo poche. Non è tanto un problema, questa è una delle cose che ho spiegato nel saggio. Uno dei miti che ci vengono raccontati, l'avrà sentito anche lei, che dobbiamo copiare la Germania. È stato detto, noi siamo manufatturieri come la Germania. Il problema è che la Germania non possiamo più copiarla. Noi abbiamo 1.200.000 piccole aziende sotto 50 milioni di fatturato. La Germania ne ha 2 milioni, quindi più o meno come rapporto del PIL. Ma se vede le aziende più grandi, medie grandi, ce ne hanno 5-6 volte le nostre. Quindi le Luxottica ne hanno tante più di noi. Quindi esportano, per andare in Cina, prendo un esempio, andare in Cina, Luxottica è andata in Cina e i primi 3 anni ha perso 25 milioni di euro. Una piccola azienda non avrebbe mai potuto avere, perché per entrare in un mercato come quello cinese bisogna investire. Quindi il problema di fondo è che noi abbiamo troppe piccole aziende e troppo legate alla parte industriale. Per la parte industriale va benissimo, però c'è anche altre cose. Per esempio Luxottica fa anche il commercio, l'acquisizione. L'altro problema gigantesco della nostra imprenditoria, del panorama delle imprese, che è totalmente sottovalutato da chi sta facendo le riforme, se poi avremo tempo spiegherò qual è la nostra visione del cambiamento del paese, è che oggi l'economia rispetto a 50 anni fa è cambiata. 50 anni fa era un'economia di fabbriche che esportavano, oggi le fabbriche rappresentano 10%, l'esportazione 10%, tutta l'economia industriale rappresenta il 15-20%, il resto è un'economia di servizi. Cosa sono i servizi? Lei è un servizio, i media sono un servizio, il commercio è un servizio, l'IKEA è un servizio, l'ospedale è un servizio. Oggi questo rappresentano l'80%. In questo settore noi siamo straordinariamente indietro e a bassissima produttività. Quindi noi, la nostra economia è rimasta indietro di 50 anni. Vecchia. Perché è un'economia anche in cui c'è una presenza dello Stato molto forte, in cui c'è una presenza pubblica molto forte, con un concetto del pubblico che è un fatto che il bene pubblico è un bene di nessuno, non è un bene di tutti. Non so se, devo dire la verità, se la presenza del pubblico sul PIL in Italia sia tanto più forte in percentuale del PIL, è sicuramente più forte che nei paesi anglosassoni, ma non so se è così più forte. Io parlo proprio di economia privata. L'economia pubblica è un disastro, poi ne parleremo, infatti abbiamo fatto una proposta su come ripensare lo Stato, molto più drastica di quella che si sta proponendo in questi giorni dal governo Monti, ma è l'economia privata quella che purtroppo non si è trasformata. Incontri. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Ancora buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Continuiamo il nostro incontro con Roger Abravanel, per 35 anni era McKinsey, ora libero professionista, libero pensatore, ma soprattutto missionario del merito, sta portando avanti questa missione proprio per cercare di far crescere l'Italia attraverso i meccanismi più positivi del mercato, della concorrenza, della capacità appunto di sfruttare a pieno le risorse umane. Abbiamo parlato del libro, un libro appena uscito, Italia cresci o esci, scritto da Roger Abravanel con Luca Dagnese, un altro capitolo di un cammino appunto che era iniziato alcuni anni fa con un libro proprio dedicato alla meritocrazia. In questo libro ci sono alcune proposte concrete, molto reali, da cui iniziare un cammino certamente difficile, quasi temerario. Allora, Roger Abravanel, cominciamo a parlare di queste proposte concrete, che come si può cominciare a smuovere questo paese? Guardi, sì, io ho un capitolo intitolato Fulmonti, no, delle proposte. Perché Fulmonti? Perché il governo Monti ha fatto molto bene nella prima fase dell'austerità, un po' meno bene sta facendo nella fase della crescita, ma non perché Mario Monti è una persona straordinaria. Il problema è che ha talmente poco tempo e ha talmente di tanti limiti politici che non può fare riforme così drastiche che io ho inserito nel nostro saggio. C'è un problema di fondo che in Italia c'è un problema di cultura anticrescita. Perché? Perché la crescita, lo sviluppo è molto legato alla meritocrazia e al rispetto delle regole. La meritocrazia perché? Perché se non avanzano persone eccellenti, non tirano tutte le altre dietro. E parlo dell'università, dell'imprenditoria, dello Stato, dei media. Però le regole, che si dice che ce ne sono troppe, lo ha detto l'ultimo presidente della Confindustria, non è vero che ce ne sono troppe, ce ne sono troppe perché sono sbagliate, perché non vengono rispettate e bloccano l'economia. E quindi è molto importante avere una visione del paese basata su questi due pilastri, meritocrazia e rispetto delle regole. Dopodiché abbiamo analizzato ognuna delle riforme del governo Monti, quelle che ha fatto e quelle che ancora non ha fatto, e le abbiamo trasformate in una visione veramente molto più drastica, orientata a lungo termine, non a quello che si può fare nei prossimi sei mesi. Le faccio due o tre esempi molto concreti. Parliamo di regole molto semplici, le liberalizzazioni. Oggi l'economia, che è un'economia di servizio, ha bisogno di più regole, non meno regole, ma devono essere giuste. Purtroppo molte delle liberalizzazioni fatte sono basate su principi un poco accademici, frettolose e sbagliate. Basate su, per esempio, il principio che bisogna fare la concorrenza a tutti i costi, un principio molto caro agli economisti. Più taxi, vogliamo avere più licenze di taxi. Non è vero, il problema non è avere più taxi, è avere tariffe più basse. Il problema lo si affronta non dando più licenze, ma ripensando tutti i trasporti urbani. Se si chiude il centro, se i trasporti migliorano, eccetera, i taxi vanno di più e quindi i loro costi si riducono e scendono le tariffe. Un altro problema di concorrenza è stato quello di, per esempio, imporre più preventivi quando uno vuole fare un RC auto. Quello che è molto più importante invece è liberalizzare le tariffe per penalizzare chi froda e chi è imprudente. In Italia abbiamo le RC auto che costano il doppio che gli altri paesi, a Napoli quattro volte, perché ci sono i record dei colpi di frusta. Su questo la riforma non è stata abbastanza incisiva, è basata su, quindi le dico, sulle liberalizzazioni siamo entrati su un tema. Ecco, quindi regole fatte rispettare. Uno dei problemi italiani è quello della giustizia, una giustizia che non funziona, che lascia spazio agli abusi. Eppure c'è una cultura di fondo in cui lo Stato dovrebbe più punire chi sbaglia che non premiare chi merita, e forse è anche questa cultura di fondo che è un po' un ostacolo. Certamente va punito chi sbaglia, però bisogna anche premiare chi merita. Allora, nel saggio, oltre a riformulare delle proposte molto più aggressive di quelle del governo attuale sulla riforma del lavoro, sulle liberalizzazioni, sulla lotta all'evasione, sullo Stato, abbiamo attaccato due temi che invece non sono stati per niente affrontati. Uno è la giustizia civile, l'altro è quello della scuola. La giustizia civile l'avevo già affrontato in meritocrazia, scoprendo una specie di eroe, che è l'ex presidente del Tribunale di Torino, si chiama Mario Barbuto, il quale ha ridotto i tempi della giustizia civile. Ma senza una giustizia civile veloce, la nostra eco ai tempi del Gabon purtroppo, non funziona nessuna liberalizzazione, perché la giustizia civile è più importante di quella penale e permette il rispetto dei contratti commerciali. Nel saggio abbiamo spiegato come hanno fatto a Torino, come ha fatto Barbuto e come si potrebbe estendere a tutta l'Italia. Uno Stato che cosa deve servire? Deve servire a garantire il rispetto della giustizia, lo diceva Adam Smith, e a educare i suoi cittadini. Il secondo è la scuola, su cui non è stato fatto assolutamente ancora nulla, perché tutta l'ottica della nostra scuola è orientata a proteggere chi lavora nella scuola, che sono gli insegnanti, e non i consumatori, che sono gli studenti. Per cui al centro e sud Italia abbiamo delle scuole spaventose che si stanno riflettendo sull'economia. Anche l'università, si parla molto di abolire il valore legale del titolo di studio, Ma non si fa nulla. No, ma questo è un altro dei miti. L'abolizione dei valori legali e di studio non cambierà assolutamente nulla. Serve ancora per poter garantire più concorrenza all'ingresso delle imprese pubbliche. Oggi il valore di un titolo non vale nulla. Conta dove ti sei laureato e con che voti ti sei laureati. Il fatto che oggi si parli tanto di questo problema e non si parli dei veri problemi dell'università, che sono il fatto che i soldi vanno all'università pubblica indipendentemente dai risultati che porta in termini di didattica, in termini di ricerca, il fatto che i consigli di amministrazione, che i rettori siano totalmente autodefiniti, non è cambiato nulla. Io di queste cose ne ho parlato, ne ho ripreso nel nostro saggio, e purtroppo il governo Monti su questi due temi, che sono la giustizia e l'educazione, non ha ancora fatto nulla, e sono quelli che cambiano la cultura poi veramente, certo, del paese. Ecco, c'è un manifesto per i giovani italiani che chiude un po' questo libro, in cui il primo punto è fare tutto il possibile per raggiungere al più presto l'indipendenza economica dalla famiglia. Ecco, di fronte a un'Italia in cui l'età in cui si entra al lavoro è sempre più alta, in cui si abbandona la famiglia e si raggiunge l'indipendenza economica è sempre più alta, in cui molto spesso per raggiungere questo obiettivo bisogna andare all'estero, già questo primo principio è un principio abbastanza temerario. Guardi, il nostro paese sta andando rapidamente alla catastrofe, una catastrofe molto peggiore di questo terremoto di questi giorni. Il problema è che noi invertiremmo la rotta, ed è possibile farlo solo se si svegliano i nostri giovani. Il problema è che io incontro tanti dei nostri giovani che sono sfiduciati e un po' addormentati, non credono nelle loro possibilità. Ho fatto questo decalogo di 8 punti, il primo dei quali è l'indipendenza economica dalla famiglia. Ma perché? Per una ragione molto semplice: che un giovane che dipenderà sempre fino a quando ha 34 o 35 anni dai suoi genitori non potrà mai capire quanto vale. Uno capisce quanto vale il giorno che ha un riscontro economico su quello che vale, e se uno non capisce quanto vale non si impegnerà mai. Il nostro paese è fermo. L'inventore della parola meritocrazia si chiamava un signor Michael Young, un laburista del secolo scorso, che ha detto: le grandi trasformazioni sociali e economiche avverranno solo quando i giovani prenderanno fiducia in se stessi e smetteranno di venire a patti con gli anziani. I nostri non lo fanno. Ecco, ma i giovani hanno anche di fronte a loro questo problema del posto del lavoro e di un precariato che sta diventando sempre più pesante, una realtà del mondo del lavoro che sembra più sfruttare i giovani che non valorizzarli. Assolutamente vero. Uno dei capitoli che abbiamo nel nostro saggio è proprio una vera riforma del lavoro, una riforma del welfare familiare, non quella affrontata dalla riforma Fornero, che purtroppo è una riforma dimezzata. Noi oggi abbiamo 21 milioni di persone che lavorano in Italia. 12 milioni sono ultra protetti, non sono licenziabili a livello individuale, di cui una parte, 4 milioni nel pubblico, 8 milioni nel privato, protetti dall'articolo 18, e 9 milioni sono invece licenziabilissimi a livello individuale, sono il famoso apartheid di Pietro Ichino. Il problema di questo apartheid non è solo che è incredibilmente iniquo nei confronti di questi giovani, anche di molte donne, è che ha bassa produttività. Perché? Perché questi giovani, che prendiamo un esempio, un softwareista partita IVA che lavora per un'azienda media, lui non avrà mai opportunità di essere valorizzato, perché l'azienda media o grande non gli confronterà mai l'opportunità, perché le darà la persona che al suo equivalente softwareista meno bravo che sta dentro l'azienda. Quindi la nostra riforma del lavoro è fallita proprio sul principio della meritocrazia individuale. Noi proponiamo un modo molto più drastico di affrontarla, che purtroppo oggi è un po' tardi, ci dovrà pensare qualcun altro. Ecco, perché ci sono anche ostacoli di tipo politico, di tipo sociale. L'ottica con cui i politici, i sindacati, ma gli stessi opinion leader, è forse troppo un'ottica di conservazione dell'esistente, di ricerca di garanzie. Guardi, lei ha toccato il punto chiave. Non si può più rinviare il cambiamento, ne abbiamo parlato per 20 anni. La trasformazione partirà, e sarà una trasformazione epocale, quella che abbiamo descritto, solo se alcuni italiani, non tutti, capiscono che è nel loro interesse cambiare. Chi sono questi italiani? Sono, per esempio, i 9 milioni di discriminati, di lavoratori, e non i 12 milioni ultraprotetti. Sono, per esempio, i giovani e le donne che non avranno una pensione e non hanno lavoro. Sono i napoletani onesti e cauti che pagano 1.000 euro per un RC auto per colpa dei loro concittadini che hanno il record dei colpi di frusta. E chiunque faccia causa avendo ragione. Sono, per esempio, gli genitori e gli studenti del Sud Italia che sono incredibilmente discriminati da un sistema scolastico pessimo. Quindi l'appello del nostro saggio non è a tutti gli italiani, è a quegli italiani che avrebbero molto da guadagnare da questa trasformazione epocale. Se non si svegliano loro, è la fine, veramente. Non è più un problema. No, questa non è una crisi, attenzione. Le crisi finiscono, questa certo. Va avanti da un bel po'. Il problema è svegliarsi in senso costruttivo, perché è molto facile criticare, è molto facile fare l'antipolitica, è molto facile cercare appunto di indicare i colpevoli come altri, ma è molto più difficile invece diventare protagonisti del cambiamento e accettare in fondo di essere una forza che propaganda il merito anche sacrificando qualcosa. Guardi, gli italiani diventeranno protagonisti nei prossimi mesi quando dovranno votare per qualcuno di nuovo. Se si documentano seriamente, quindi, con l'aiuto di media validi e leggendo i libri giusti, forse potranno votare qualcuno di giusto. Fino ad oggi abbiamo un vacuum politico spaventoso, non solo perché non valgono nulla questi e perché non esiste la meritocrazia, ma proprio perché non esiste la volontà di fare questa trasformazione, perché tutti hanno questi interessi passati, politici di destra e di sinistra. Gli italiani devono documentarsi, soprattutto quella parte degli italiani che ho descritto prima, e a questo punto faranno le scelte per nominare qualcuno che li aiuterà a trasformare e a crescere, se no escono. Quindi conoscere la realtà, conoscere per deliberare, questa è un po' la filosofia, una filosofia che ci fa anche valorizzare poi tutte le grandi potenzialità che ha l'Italia e che sono un po' imbrigliate in una camicia di forza di regole troppo fitte, troppo formali, che forse non liberano il mercato, invece le regole dovrebbero aiutare il mercato a funzionare meglio. Io ringrazio Roger Abravanel di essere stato con noi questo pomeriggio, ricordo che è l'autore del libro Italia cresci o esci, edito da Garzanti, oltre che essere un grande esperto di consulenza internazionale. Dopo 35 anni passati alla McKinsey, è ancora attualmente in prima linea in responsabilità in consiglio di amministrazione di grandi imprese. Grazie a Roger Abravanel. Grazie a voi. E ringrazio anche Peter Bascapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.